Il punto di Stefano Folli. Questa pena inflitta a Berlusconi è simbolica, certo, ma in tutti i sensi, perché descrive anche la lenta, inesorabile uscita di scena di un uomo che è stato potentissimo per un ventennio. Ora a Berlusconi, visto che potrà fare la campagna elettorale, resta un obiettivo: evitare il collasso elettorale di Forza Italia. Scendere al 15%, come qualche sondaggio comincia a prevedere, vorrebbe dire compromettere quel delicato equilibrio in Parlamento su cui si regge lo stesso progetto riformatore del governo Renzi. Può sembrare strano, ma è così. La politica italiana in questa fase è un mosaico delicato, guai a far saltare un singolo tassello. E infatti Beppe Grillo vede nel possibile crollo del partito berlusconiano l'occasione storica per destabilizzare il quadro generale e sostituirsi a Forza Italia come secondo polo. Sarebbe un risultato paradossale delle elezioni europee che non dovrebbero riguardare la politica interna, ma stavolta tutto è diverso. Bastava sentir parlare Marine Le Pen ieri sera a 8:30 per capire che stavolta la campagna elettorale coinvolge tutti e avrà conseguenze per tutti.